C'è in atto un evidente scontro, è innegabile, tra procura e giudice per le indagini preliminari. Il codice di procedura penale parla chiaro, il GIP ha smontato l'80-90% dell'impianto accusatorio, insomma, sono rimasti in piedi due capi di accusa per i quali francamente è difficile comprendere la decisione di disporre la custodia cautelare ai domiciliari. Insomma, tra le tante disposizioni cautelari possibili ha scelto la custodia, l'arresto, gli arresti domiciliari, e questa francamente, pur rientrando nella discrezionalità che la legge conferisce ai magistrati, ragioni di buonsenso ti fanno proprio porti degli interrogativi. Era veramente necessario? Credo che sia veramente incomprensibile questa decisione, ben più grave di quello che è successo alla persona e al sindaco lucano è il fatto che il progetto di Riace già da molto tempo è sotto attacco, è evidente questo, e io personalmente credo che non ci sia un accanimento verso Mimmo Lucano in sé, ma verso quello che Mimmo Lucano rappresenta, almeno da parte governativa, da parte ministeriale, che ha già palesato l'intento di smantellare gli SPRAR a favore di CAS o SimilCAS, e quindi si ritorna al passato, ai centri di accoglienza gestiti dalle prefetture e non dai comuni, perché gli SPRAR sono gli enti affidatari, sono i comuni, gli enti locali, no? È doppiamente, triplamente incomprensibile perché lo SPRAR ha dimostrato nel corso degli anni l'efficacia dell'accoglienza con piccoli centri, con appartamenti, eccetera. Per cui io devo dire la verità, sono malizioso e non mi meraviglierei se si vuole distruggere Riace per dimostrare che lo SPRAR non funziona, per distruggere lo SPRAR. Cioè, io non penso che a Salvini interessi particolarmente Riace. Credo e temo che l'idea di colpire Riace serva per colpire l'emblema dello SPRAR, perché Riace è l'emblema di un certo tipo di accoglienza tramite gli SPRAR. E quindi, siccome vogliamo distruggere gli SPRAR, distruggiamo il simbolo principale degli SPRAR, che è Riace.